Salute e Società. Punto Radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca Trevigiana. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con So Info, la rubrica radiofonica settimanale che vi accompagna nell'approfondimento dei temi della salute e della società, osservandoli con sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Approfondiamo oggi un altro aspetto legato al tema della menopausa, chiedendo alla dottoressa Beatrice Azzalini, ginecologa dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, come cambi in questo periodo della vita di una donna la sua sessualità. Ricordo che la menopausa è l'assenza permanente delle mestruazioni legate alla mancata produzione di ormoni da parte dell'ovaio. E a causa della carenza di questi ormoni, parliamo nella fattispecie estrogeni e anche in minima parte di testosterone, compaiono dei disturbi della sfera sessuale molto importanti. E come stima della gravità del problema, noi sappiamo che una donna su due ne soffre, cioè il 50% delle donne ne soffre. E questi possono riguardare sia la sfera psicologica, perché appunto questi ormoni nel corpo che cambia intervengono appunto su questo stato, con un calo della libido, cioè del desiderio sessuale, e da un lato dei dolori locali invece che riguardano poi dei dolori vulvovaginali e della sfera urogenitale. Per quanto riguarda appunto i dolori vulvovaginali, sono dovuti, puntualizzo, uno sottigliamento della parete vaginale che diventa più fragile, meno lubrificata, causando dei sintomi come secchezza, prurito e irritazione che possono essere causati anche da un'alterazione di tutto l'ecosistema microbiotico vaginale e è sempre influenzato dagli estrogeni. E questi disturbi per alcune donne possono essere molto severi, e oltre che avere delle alterazioni nei rapporti con il proprio partner, rendere difficile l'attività quotidiana, quale stare sedute, camminare, fare sport. E questo comporta appunto delle grosse alterazioni sulla vita di coppia, sulle relazioni e anche sull'autostima. E questo disturbo, anche se molto importante, viene riferito pochissimo dalle donne e viene sottaciuto spesso anche alla domanda precisa se soffre di disturbi di questo tipo. E pensiamo che se, come ho detto prima, il 50% delle donne ne soffre, che ha disturbi per un'atrofia vulvo-vaginale, significa che a livello europeo circa 50 milioni di donne hanno disturbi di questo tipo e appunto un numero elevato di donne può essere a elevato rischio di infezioni oltre che vulvari, vaginali e urogenitali. Attualmente abbiamo a disposizione vari tipi di terapie per l'atrofia vulvo-vaginale. Possiamo avere trattamenti topici, sia ormonali che non ormonali. Quelli non ormonali hanno una sola funzione di idratante e lubrificante, gli ormonali invece agiscono di più nel derma, per cui mantenendo un'elasticità maggiore dei tessuti. Volevo puntualizzare che le donne non devono utilizzare dei prodotti non concepiti in modo specifico per l'impiego vaginale, perché tante volte vengono usate creme per le mani, lozioni per il corpo, olio per i bambini, che possono contenere alcol e profumi e irritare ulteriormente le pareti vaginali e favorire le infezioni. Esistono dei preparati vaginali appositi, anche contenenti estrogeni, che possono essere di grande aiuto. Comunque la terapia ormonale di prima scelta è una terapia non solo topica, ma una terapia sostitutiva che aiuta la donna su vari fronti, a livello dei sintomi vaginali, urinari, della sfera sessuale, ma anche come prevenzione per l'osteoporosi e un mantenimento di un buon stato psicofisico della donna.